Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Già i temi principali ve li ha annunciati il nostro GR, ossia l'inflazione che rialza la testa. Va detto che insomma, siamo sempre su livelli bassi di inflazione, però il tasso di crescita dei prezzi al consumo è stato doppio rispetto all'anno precedente, quindi rispetto al 2009. Va detto, ma ne parleremo più avanti, soprattutto attribuibile questo aumento della crescita dei prezzi al consumo, attribuibile, dicevo, all'energia da un lato e ai trasporti, quindi rincari nei trasporti. Di rincari parleremo però nella seconda ora del programma, dopo l'incontro, anche qui vi hanno anticipato i nostri giri la notizia, tra il ministro Romani e i vertici delle assicurazioni italiane, ossia il presidente dell'ANIA Cerchiai e il presidente dell'ISVAP, che è l'autorità di vigilanza sul mondo assicurativo, Giannini, perché il caso delle polizze RC Auto è un caso, dice, inammissibile Romani, ma insomma, da noi si paga una polizza RC Auto in media 420 euro l'anno contro una media in Francia di 170, in Germania di 210, in Spagna di 220. Allora, gli automobilisti italiani sono più sinistrosi, nel senso che fanno più sinistri, oppure c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Va detto che il mondo delle assicurazioni da sempre risponde: attenzione, i sinistri in Italia sono sinistri quasi sempre o con percentuali di danno fisico alle persone doppie rispetto al resto d'Europa, e quindi i costi per il mondo assicurativo sono più alti. Anche qui o gli italiani guidano male oppure ci sono troppi furbi e troppe truffe in giro, perché non si capisce perché la media dell'incidente, del danno fisico, debba essere doppia rispetto a quella europea. E ha chiesto comunque Romani misure immediate che possono essere inserite o in un disegno di legge oppure nel DDL concorrenza. Avremo il presidente delle compagnie di assicurazione Cerchiai, appunto, nostro ospite nella seconda ora del programma. Altra notizia di cui ci occuperemo, la cassa integrazione e guadagni. Questa è una buona notizia, nel senso che i segnali che arrivano dal ricorso alla cassa integrazione sono segnali tra virgolette, però insomma confortanti, perché nel 2010 l'INPS ha diffuso infatti oggi i dati, e praticamente è crollata a dicembre, nel senso letterale meno 16% rispetto a dicembre del 2009, e soprattutto la flessione è stata forte per la cassa integrazione ordinaria nell'industria e anche su base annuale. Pensate che la cassa integrazione ordinaria nell'industria rispetto al 2009 è calata del 46%, stabile invece la cassa integrazione nell'edilizia, e poi sulla cassa integrazione in deroga invece il dato è un po' diverso. Questo è un buon dato, anche perché segnala che insomma l'industria, pur con fatica, pur a macchia di leopardo, ma si sta riprendendo. Ancora Fiat. Ora, Fiat è il caso del giorno in borsa, ma non, e questa è forse la sorpresa per molti analisti, non Fiat Industrial, ossia i trattori e Movimento Terra di CNH e i camion dell'Iveco, ma Fiat Auto, e quindi Lancia, Alfa, Ferrari, Maserati e Fiat, più 6% in questo momento. E mentre Fiat Auto, come la chiamo io per far capire a tutti, guadagna il 6%, è il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, e sulle privilegio è il secondo miglior titolo. Le privilegio fanno più 9,90%, in assoluto il miglior titolo è Poltrona Frau, più 9,96. Ma dicevo, se Fiat Auto guadagna il 6% ed è a 7,45 euro per azione, Fiat Industrial, quella con i camion e con i trattori, perde il 2% ed è il secondo peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, ed è scende a 8,82 euro. Ripeto, sorpresa da parte di alcuni analisti che puntavano più sulla parte trattori, Movimento Terra e camion, per le quote di mercato, per la forza dei marchi, che non sulla parte auto. L'altro titolo che va male oggi è Bulgari, meno 2,6, Mediaset perde l'1,8, Tenaris meno 1,7 come A2A, Finmeccanica meno 1,6 come Luxottica, l'1,4 lo perde Saipem e anche Todd, dei migliori dicevamo Fiat, poi Diasorin più 2,2, Azimut più 1,7, Intesa più 1,6, Eni più 1,3, Popolare Milano più 0,80 come Ubibanca e Campari e le generali. L'euro come messo è a quota 1,33, quindi stabile. La borsa di Milano guadagna lo 0,3% con, come Parigi. Francoforte invece perde lo 0,3%. Londra oggi aperta guadagna il 2%, ma ieri era chiusa, per cui attenzione, prende anche i guadagni di ieri. L'America è invariata. L'ultima cifra, prima delle notizie in breve, quella per i vostri sms, 349-238-6666. Allora, partiamo come sempre dal petrolio a $90 il barile, mentre il colosso petrolifero brasiliano Petrobras ha confermato di essere in trattativa con l'ENI per rilevare la quota del 33% che l'ENI ha ancora in pancia del gruppo petrolifero portoghese Galp. Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese Diario Economico, Petrobras avrebbe offerto circa 3 miliardi e mezzo di euro per questa quota, ma l'ENI, da varie fonti, vorrebbe ottenerne un bel po' di più, un miliardo almeno in più, 4 miliardi e 7. In Spagna, di Spagna parleremo perché è arrivato un dato anche sull'inflazione in Spagna. Comunque il primo ministro Zapatero ha detto che ci vorrà un nuovo stress test per le banche spagnole da effettuare subito e che comunque il rapporto deficit-PIL nel 2010 sarà meglio del previsto, oddio, altissimo, al 9% contro un deficit PIL italiano che viaggia intorno al 3,5-4%, 9% in Spagna. E poi ha sottolineato Zapatero quanto sia importante che la Cina abbia fiducia nella Spagna. La Cina ha annunciato che comprerà debito spagnolo, comprerà obbligazioni spagnole, e tant'è che oggi è in visita nei paesi iberico il vice premier cinese Li Keqiang, quello che ieri appunto ha assicurato gli spagnoli sull'intenzione cinese di comprare il loro debito. Dicevamo dell'inflazione a livello europeo al 2,2%, mai così alta da 2 anni, di questo parleremo fra poco, quindi il dato italiano, attenzione, non è un dato anomalo, è assolutamente in linea con il resto dell'Europa. E infatti nel 2010 siamo un punto e mezzo percentuale di inflazione, il doppio rispetto quanto a crescita dei prezzi al 2009, dove fu dello 0,8%. Il dato che ha sorpreso sull'inflazione è quello di dicembre, dove l'inflazione è arrivata all'1,9%, siamo al livello più alto dal dicembre del 2008, ma ripeto, qui pesa molto la benzina, più 10% rispetto a un anno fa, e il gasolio più 15% rispetto a un anno fa. Ma non riapro la polemica, anche se, e lo ridico, non è giustificato dall'andamento dell'euro sul dollaro, non è giustificato dall'aumento del prezzo del petrolio, che è a $90, non a 110-112. I petrolieri, ne abbiamo discusso, ritengono assolutamente giustificati questi rincari. Il Presidente del Consiglio e i temi legati all'economia, ne ha parlato appunto questa mattina in un'intervista a Studio Aperto Silvio Berlusconi, ha toccato anche altri temi. Comunque, le elezioni, perché ne parliamo? Perché Berlusconi ha sostenuto che la Chiesa e il mondo dell'industria, cioè vari soggetti della nostra società, dalla Chiesa all'industria, dalla Chiesa Cattolica all'industria, sono contrari alle elezioni. Io sono assolutamente convinto che l'Italia abbia bisogno di tutto tranne che di elezioni anticipate. L'Italia ha bisogno soprattutto di stabilità, ha bisogno di continuità nell'azione di governo, e noi abbiamo molte cose da fare. Se lo chiedono tutti i protagonisti più importanti della nostra società, dall'industria alla Chiesa Cattolica, vuol dire che questa è una richiesta davvero fondata, e tutti ci chiedono di fare ogni sforzo per evitare le elezioni anticipate. E poi i conti pubblici sono in ordine secondo il Presidente del Consiglio e non vi sarà nessun aumento delle tasse. Abbiamo saputo tenere i conti pubblici in sicurezza senza aumentare le tasse. Abbiamo tutelato la coesione sociale e i posti di lavoro mettendo in campo risorse senza precedenti per la cassa di integrazione. Abbiamo difeso i risparmi, le pensioni e gli stipendi che in media sono saliti più dell'inflazione, e ora la competizione tra le economie di tutto il mondo, che va sotto il nome di globalizzazione, ci impone di metterci al passo con i cambiamenti e sollecita innovazioni in tutti i settori. Per fortuna nostra l'Italia è ancora uno dei primi paesi al mondo per forza economica. Il governo ha lavorato e continuerà a lavorare affinché continuiamo adesso a pieno titolo. Proprio a questo fine stiamo varando importanti riforme in molti settori, come il federalismo fiscale, la sicurezza dei cittadini, il piano per il Sud, la riforma della giustizia, il fisco. E poi lavoreremo a un programma di interventi strategici di modernizzazione del Paese, ne cito alcuni: piani case, investimenti infrastrutturali, semplificazione, digitalizzazione della pubblica amministrazione, liberalizzazioni, energie, piano per il nucleare, la promozione della banda larga, la riforma del patto di stabilità interno, l'accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e infine stiamo preparando 3 interventi bandiera in favore di cultura e ricerca, dei giovani e per il comparto della sicurezza dei cittadini. Queste le promesse, poi come sempre questo programma è qui per verificare poi che le promesse alle promesse seguono i fatti, perché dei temi citati dal Presidente del Consiglio, tutti temi delicatissimi e importantissimi per la nostra economia, si parla da anni, quindi poi vorremmo vedere i disegni di legge, i decreti attuativi su tutto, anche sui tempi con cui la pubblica amministrazione biblici paga le imprese italiane, tra i 40 e i 50 miliardi di arretrati per decine di migliaia di imprese italiane. Vedremo. E qui arriviamo al tema con cui apriamo oggi il programma, perché parliamo di cassa integrazione, di disoccupazione, parliamo anche di giovani, perché tutti i dati ricevuti ci dicono che la disoccupazione è doppia, se non tripla in alcuni casi nelle fasce giovanili. Berlusconi ha detto l'Italia può tornare ad essere un paese per giovani, in questo modo, a mio avviso, ammettendo che in questo momento non lo è. Sentiamo questo passaggio. Nessun governo del passato ha fatto così tanto per i giovani quanto il nostro. In soli 2 anni e mezzo abbiamo ammodernato il sistema dell'istruzione a tutti i livelli per avvicinare la formazione dei giovani a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro e delle imprese, e abbiamo introdotto dovunque il criterio del merito, che era stato cancellato dal 68 prima, dai professori settantottini poi, e poi ancora dalla sinistra dei sindacati, che per anni hanno concepito la scuola solo come un ammortizzatore sociale, più per gli insegnanti e per il personale che per gli studenti. Non solo, abbiamo varato anche una serie di provvedimenti ad hoc rivolti proprio ai giovani, a sostegno del lavoro, a sostegno dello studio, a sostegno della casa per i giovani, e cioè abbiamo varato il bonus di 5.000 euro per le imprese che stabilizzano i genitori precari con figli. Mi riferisco al mutuo reso accessibile anche alle giovani coppie con contratti atipici. Molti di questi provvedimenti sono già operativi e proprio dal 1 gennaio di quest'anno, nell'ambito del piano che abbiamo chiamato Diritto al Futuro, che ha portato avanti con determinazione dal ministro Meloni e dal governo. Questi provvedimenti, ricordo, che possono contare su un finanziamento di 300 milioni di euro. Allora, Berlusconi, nel parlare dei giovani, in qualche modo rispondeva a quanto dichiarato questa mattina dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha detto: attenzione, insomma, ci attendono test e prove molto impegnative, occorre tenere aperte le linee di comunicazione con i giovani. Ci attendono delle prove molto impegnative, occorre quindi uno scatto, una mobilitazione, e bisogna soprattutto tenere aperte le linee di comunicazione con le generazioni più giovani. Quindi il Presidente della Repubblica, dopo l'appello di fine anno, dove già c'era stato un passaggio molto molto significativo sui giovani, è tornato al tema dei giovani, che in qualche modo ci conduce appunto al dato sulla cassa integrazione. Perché lo dico? Perché quando parliamo di disoccupazione, appunto, sono le fasce giovani, i lavoratori precari, quelli più colpiti. Il dato però di oggi, che riguarda tutta la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, e poi anche quella in deroga, insomma, la cassa integrazione, per fortuna, soprattutto quella ordinaria, è in netto calo. Un dato che in qualche modo fa il paio con quanto è avvenuto oggi in Spagna. Anche in Spagna sono calati i disoccupati per la prima volta da 5 mesi, anche se restano altissimi, mentre sono aumentati in Germania per la prima volta da 17 mesi. Dicevo, la cassa integrazione è crollata a dicembre, meno 16,5%, rispetto a dicembre del 2009, e comunque anche un meno 5% quasi rispetto a novembre. Poi, per quello che riguarda la flessione degli interventi ordinari, è meno 63% rispetto all'anno prima nell'industria, e su base annuale meno 46%, cioè nel 2010 la cassa integrazione ordinaria rispetto al 2009 è calata del 46%, stabile nell'edilizia. Le ore richieste 1 miliardo e 200 milioni di ore, ma il consumo effettivo, l'utilizzo effettivo è stato della metà praticamente. Presidente dell'INPS, grazie per aver accolto il nostro invito, Antonio Mastrapasqua, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E buon anno, chiaramente, diciamo in questi giorni. Allora, il dato che è più la sorpresa, perché a mio avviso c'è questo elemento su dicembre che potrebbe avere un aspetto anche di congiuntura, però quello sull'anno, meno 46%, è forte. Com'è andata la straordinaria, quella in deroga? Ah, guardi, innanzitutto mi fa piacere commentare i dati macro, perché l'incremento delle ore autorizzate rispetto a quelle del 2009 non deve indurre in un errore, perché mentre nel 2009 noi avevamo il cosiddetto tiraggio intorno al 70%, nel 2010 ci attestiamo intorno al 48-50%. Cioè il tiraggio, quindi, è quanta parte delle ore richieste vengono effettivamente poi utilizzate. Esatto, sì. Perché ci siamo accorti che le aziende fanno magazzino di ore, ecco, hanno forse timore per il futuro e tendono a fare più magazzino di ore. E questo ovviamente non deve far vedere l'aumento come un aumento di consumo, ma come solamente un aumento di magazzino. In più abbiamo una diminuzione molto forte della cassa ordinaria, abbiamo un lieve incremento della straordinaria e nuovamente un decremento della deroga. Questo ci fotografa una situazione di protezione, ovvero la ordinarizzazione della cassa integrazione straordinaria e il successivo passaggio e copertura per le piccole aziende con la deroga ha fatto sì che tutte le aziende e praticamente tutti gli italiani fossero potenzialmente coperti da questo strumento. E questo ha dato una protezione a tutto il patrimonio, diciamo, di risorse umane del paese. È chiaro che il fatto che cali quella in deroga, lo spiego a chi ascolta, significa quella in deroga è quella utilizzata da chi non ce l'avrebbe la cassa integrazione a livello, diciamo, formale, e lo ottiene appunto in deroga. Di solito sono le piccole imprese. Esattamente, sono tutte le aziende che fino all'inizio della crisi erano sprovviste di protezione, che invece con gli strumenti messi a disposizione dal governo e in parte dalle regioni sono stati coperti. Questo strumento si è rivelato subito molto efficace, perché ha coperto tutte le piccole aziende, tutte quelle che altrimenti avrebbero potuto licenziare, perché era una crisi ed è una crisi passeggera, ancorché i tempi si stiano allungando, ma la volontà delle aziende era quella di mantenere i dipendenti presso le aziende e non metterle invece in disoccupazione o mobilità. Sì, sulla crisi passeggera, Presidente, siamo tutti passeggeri o di passaggio, lo sa. Per cui, e quanto ci mettiamo a uscire da questa crisi? Più che il fatto che no, passeggeri. Io intendevo passeggere il fatto che non era una crisi di settore, cioè non era una crisi dovuta a una materia prima o un ciclo produttivo, era una crisi nata fuori dall'Italia e che comunque nessuna azienda vedeva il proprio prodotto come un prodotto non più vendibile, ma era una crisi generalizzata sull'intero. Sì, lei parla della sberla del 2009, diciamo, della battuta d'arresto del 2009. Sul 2010 e sul 2011 probabilmente questo paese ha anche bisogno di ripensare alcuni modelli produttivi e settori di appartenenza, ma qui andremo troppo in là, ce ne occupiamo spesso e lo faremo anche quest'anno. Vorrei continuare sulla cassa integrazione. Presidente, perché è interessante il dato un po' per i settori, cioè il crollo vero e proprio del ricorso alla cassa integrazione si è avuto nell'industria, mentre l'edilizia, a conferma di quanto dicono i costruttori, è rimasta ferma, cioè ha usato la stessa cassa integrazione nel 2009. Esattamente, quindi questo diciamo che è un dato letto positivamente, ovvero l'industria sta riprendendo, i segnali timidi che si sono avuti all'inizio del 2010 sono confermati dal dato complessivo del fine anno. La cassa integrazione invece per l'intero anno dell'edilizia indubbiamente fa vedere una staticità rispetto al 2009 e quindi non uno scatto di ripresa come invece si sta vedendo per quanto riguarda l'industria. Ecco, voi avete già qualche dato anticipatore sul 2011, cioè le richieste che vi sono arrivate, o teniamo buoni quelle di dicembre? No, noi riusciamo a comunicare le autorizzate i primi giorni del mese successivo. Il tiraggio lo avremo tra pochi giorni, tra una settimana circa, ma ci siamo attestati gennaio-novembre intorno al 48%, ritengo che il dato non possa che essere più o meno confermato. Ecco, un'ultima domanda che è poi quella che pongono in questo momento gli ascoltatori in maggior numero, al 349-238-6666. Non potrebbe essere che il ricorso alla cassa integrazione sia calato perché da cassa integrazione si è passati a disoccupazione tout court e quindi l'espulsione dal mercato del lavoro fa sì che tu poi non debba più chiedere la cassa integrazione, ma semplicemente perché non li hai più come dipendenti? No, guardi, questo a noi non risulta, perché c'è la cassa integrazione ordinaria, si passa poi alla straordinaria senza soluzione di continuità, addirittura se ci permane la crisi si può passare alla deroga. Noi abbiamo comunicato anche oggi le domande sulla disoccupazione e mobilità, abbiamo un calo sulla disoccupazione, un calo sulla mobilità, quindi non avvertiamo ancora un'espulsione dal mercato del lavoro, ma invece c'è una tenuta dei lavoratori all'interno delle aziende e attraverso gli strumenti di sostegno al reddito che eroga l'INPS. C'è chi ci chiede di pensioni, ma di pensioni parlerà con lei la nostra Debora Rosciani il prossimo 11 gennaio, quindi lunedì prossimo. Per le varie novità sulle pensioni, visto che il 10 gennaio, ha ragione, il 10 gennaio, grazie al presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua e buon lavoro. Grazie a tutti voi, arrivederci. Allora, vedo altre domande, ripeto, sulle pensioni, se ne occupa il 10 gennaio, ragione il presidente dell'INPS, Debora Rosciani. Molti di voi contestano le frasi del Presidente del Consiglio. Ragazzi, cioè, esiste un altro programma per parlare di politica, qui parliamo di economia, siamo d'accordo che, l'ho detto io per primo, che molte delle indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio siano già arrivate negli anni scorsi, che è il momento non delle promesse, del fare, lo diciamo ogni volta, quando vi saranno i decreti attuativi, i disegni di legge, li commenteremo, per il resto sono solo promesse, indicazioni, analisi, nessuno le ha vendute come altro. I giovani e l'inflazione, allora facciamo una cosa, perché sull'inflazione abbiamo anche una scheda e qualche dato in più, ripeto, dire che l'inflazione è un problema quando l'inflazione viaggia all'1,8% o al 2,2% in Europa mi sembra un'esagerazione e soprattutto una mancanza di memoria storica su quello che era l'inflazione 3, 4, 5 anni fa. Certo è che è aumentata, per colpa della crisi internazionale, intesa come, o dei meccanismi internazionali, inteso come petrolio, ma anche per colpa delle dinamiche interne al paese, anche il governo su questo ha delle responsabilità, e mi riferisco agli aumenti tariffari, trasporti locali, molti comuni e regioni hanno aumentato le tariffe per far cassa, per i mancati trasferimenti in finanziaria, hanno dovuto fare cassa, e poi anche i pedaggi autostradali. Insomma, i rincari ci sono tanti, gas, elettricità, autostrade, RC auto, di cui parleremo più avanti. Facciamo così, meteo, pubblicità e poi parliamo di inflazione, e poi la borsa che ha chiuso con mezzo punto percentuale di rialzo, con Fiat Auto ai massimi più 6,4%, il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. ...17:36 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Vedo ancora molte domande sui rincari delle polizze RC Auto. Allora, due fronti. Da un lato noi paghiamo le polizze delle auto come valore nominale più alte d'Europa, è doppia rispetto alla media europea, 420 euro. Dall'altro anche l'aumento di queste polizze RC auto è stato un aumento doppio rispetto dei costi delle polizze RC auto, doppio rispetto all'aumento medio europeo. Alcuni scrivono, mi sembra, perché dobbiamo pagare noi per l'eccesso di frodi e di furbi nel paese? Beh, è vero anche questo, infatti ne parleremo col presidente delle assicurazioni Cerchiai fra mezz'ora. Si chiede, lo ha annunciato già il ministro Romani, un'agenzia antifrode che vada a controllare e incrociare i dati. In generale, quando un paese è incivile o furbo, le conseguenze le pagano tutti, le paga il sistema complessivo. Questo vale anche per l'evasione fiscale. Abbiamo tasse molto alte perché c'è un'evasione fiscale molto alta e non il contrario come vorrebbero alcuni, evasione fiscale molto alta perché le tasse sono molto alte. Comunque, restiamo in tema di costi del sistema, e parliamo adesso di inflazione. Ripeto, non è preoccupante come dicono alcuni, in realtà insomma l'inflazione è ancora molto molto bassa, però rialza la testa. Benzina più 9,8% a dicembre, gasolio più 15%. Anche il cibo ha contribuito non poco sul mese di dicembre. Il dato di dicembre, l'inflazione all'1,9%, è il dato più alto dal 2008 ed è il doppio esatto quanto a crescita dei prezzi al consumo rispetto al 2009. Questo vale anche su base annua, cioè prendendo tutto il 2010, ha fatto più 1,5% la crescita dei prezzi al consumo, nel 2009 aveva fatto più 0,8%, quindi è raddoppiata, non sono raddoppiati i prezzi, ma la crescita dei prezzi al consumo, come ci racconta questa scheda. Dopo i minimi registrati nel 2009, l'inflazione in Italia ha rialzato la testa, in particolare nell'ultima parte dell'anno. Nel 2010, infatti, i prezzi al consumo sono cresciuti in media dell'1,5%, contro l'aumento dello 0,8% dell'intero anno precedente, il valore più basso dal 1959. Soltanto nel dicembre scorso il tasso di inflazione è salito dello 0,4%, trainato in particolare dall'impennata dei carburanti. La benzina è cresciuta del 2,5% su base mensile e del 9,8% su base annua. Ancora più marcata è stata l'impennata dei prezzi del gasolio per auto, cresciuti del 3% sul piano congiunturale e del 14,5% in termini tendenziali. Per gli alimenti si è registrata una crescita dello 0,9% in termini tendenziali, dallo 0,7% del mese precedente e dello 0,2% sul piano congiunturale. Aumenti significativi anche per i trasporti, cresciuti dell'1,4% rispetto al mese precedente. In particolare, i voli nazionali sono cresciuti del 32,9% rispetto a novembre, meno 8,1% su base annua, mentre quelli marittimi sono cresciuti del 21,9% su novembre e del 17,7% tendenziale. Incrementi elevati si sono registrati su base annua anche per abitazione, acqua, elettricità e combustibili, più 3,5%, e altri beni e servizi, più 3,2%. L'unica variazione tendenziale negativa si è verificata nel capitolo comunicazioni, scese dello 0,6%. Queste le voci che hanno più contribuito. Tendenziale vuol dire chiaramente rispetto a un anno prima, congiunturale, lo spieghiamo ogni volta, rispetto al mese prima, ma ripeto, al di là della benzina, che è una dinamica internazionale, abbastanza internazionale, pesano le voci trasporti e i vari rincari. Adesso però vorrei passare alla borsa, perché c'è di nuovo un caso Fiat, anzi un caso in casa Fiat, se volete passare questo gioco di parole. Perché? Perché quella che doveva essere la società più acquistata, ossia Fiat Industrial, CNH, e Iveco, i gioiellini di casa Fiat, oggi perde in borsa, perde quasi il 2%. E quella che doveva essere la parte un po' così più dubbia, perde il 2,2 Fiat Industrial, la parte insomma delle auto, dove ci sono i dati sulle matricolazioni che non vanno certo bene per il gruppo Fiat, né in Italia né in Europa. C'è sì l'operazione con Chrysler, ma insomma è l'auto, e mi riferisco quindi a Fiat S.P.A., ha fatto il botto oggi, altro che ieri, più 6,41%, chiude a 7,45 euro, allora borsa sia. Allora, Fiat, io rido perché alcuni dicono anche questa volta gli analisti non l'hanno azzeccata, non tutti. C'era così un idem sentire, un'opinione diffusa che sarebbe stata proprio Fiat Industrial, quella più appetibile dagli investitori. Livia Zancaner, buon anno. Grazie anche a voi. Spiegaci perché, perlomeno da quello che si è capito, continua a eccitare più Fiat S.P.A., cioè Fiat Auto, che non Fiat Industrial. Allora, oggi come anche nelle scorse sedute sono tre essenzialmente i motivi. Da una parte il buon andamento del mercato auto, del comparto auto in Europa, poi le scommesse del mercato su future operazioni straordinarie, scommesse che a quanto pare coinvolgeranno maggiormente Fiat S.P.A. e meno probabilmente Fiat Industrial, e d'altra parte anche il mercato scommette su un incremento delle vendite di auto nei paesi in crescita come il Brasile. Bisogna notare che oggi poi hanno chiuso in forte rialzo anche le azioni privilegio e risparmio Fiat, e questi sono due casi particolari. Infatti il mercato scommette sulle ipotesi relative a una possibile conversione per entrambe, invece per quanto riguarda le Fiat risparmio hanno beneficiato anche delle attese sul dividendo. Per quanto riguarda Fiat Industrial invece, ieri il titolo aveva guadagnato circa il 3%, oggi è sceso di oltre il 2%, e secondo gli esperti, pur con il mercato che continua a scommettere su possibili operazioni straordinarie, si parlava poco tempo fa di Daimler, appunto il titolo sarebbe valutato correttamente, quindi intorno ai 9 euro. Quindi diciamo che dal punto di vista delle ipotesi che fanno gli operatori di borsa, c'è più ciccia, più interesse l'operazione su Chrysler da un lato, il dato buono non sulle immatricolazioni che sono andate molto male per Fiat, peggio della media di mercato in Italia e anche in Europa, ma il comparto auto, e poi l'eventuale interesse su Alfa Romeo. Insomma, c'è più da speculare. Faccio solo notare che comunque, sommando il prezzo di Fiat S.P.A., cioè quindi Fiat Auto, con il prezzo di Fiat Industrial, che è di oggi a 8,80 euro, arriviamo a 15,50 euro quasi, che, a 16,30 euro, scusatemi, che sono comunque un bel incremento rispetto ai 15,40 euro con cui Fiat aveva chiuso, quando era ancora un unico titolo, il 30 dicembre, e già aveva guadagnato il 40% nell'anno 2010, Livia. Sì, assolutamente, infatti ricordiamo che giovedì scorso il titolo aveva chiuso appunto a 15 e 43, quindi sommando comunque entrambi i titoli, il gruppo, la performance del gruppo resta positiva. Sì. Questo che sostanzialmente guardano gli operatori, anche perché bisogna sottolineare, come ricordavano ieri, che il prezzo, appunto, soprattutto per quanto riguarda Fiat Industrial, a cui si fa riferimento, è un prezzo assolutamente teorico, perché giovedì scorso il titolo non esisteva, quindi sono stati praticamente... Sì, però, sì, ho capito, ma la somma dei due titoli, cioè i 15,40 euro, ieri la borsa italiana le ha spacchettate in due, dando un po' più di peso a uno, un po' meno peso all'altro, visto che i ricavi sono un po' diversi, 30 miliardi da una parte, 20 dall'altra. Però, insomma, la notizia vera di oggi, quella che tu ricordavi, cioè l'interesse fortissimo. Faccio notare che Fiat S.P.A. è il miglior titolo dell'S&P MIB, ma è anche sulle privilegi il secondo miglior titolo in assoluto, più 10,6%, dopo Caleffi S.P.A. che guadagna l'11%, segue Poltrona Frau più 10%. Anche di questo parliamo dopo il traffico. 349-238-6666. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta. Marta, sì, vedo che dice, quindi due metà valgono più di un intero, concetto su Fiat spezzato in due. Sì, avete ragione, ma non è un principio così strano. Io ricordo una polemica fatta da un fondo che partecipa in Eni sull'idea che anche Eni dovesse scorporare alcune sue società. Cioè, in borsa non è strano notare che se tu prendi il titolo che tiene dentro tutto, la holding finanziaria, le controllate, e lo spezzetti, spesso la somma è superiore alla la somma delle varie neosocietà è superiore al valore del titolo quando hanno tutto dentro un unico gruppo. Perché? Perché secondo gli operatori si riescono meglio a valutare, a premiare, lo spiegavamo ieri, a premiare gli asset delle singole società. Cioè non è strano che spezzettare in due un titolo porti a un valore più alto rispetto a quanto non avesse da unito. Si è capito, Olivia, quello che ho detto? Sì, si è capito, ma anche perché poi c'è il mercato che con il titolo separato può scommettere su operazioni straordinarie per uno e per l'altro, quindi magari anche quello che è, può incrementare il valore nei giorni successivi alla separazione. Ancora sulla borsa, poi arriviamo alle tasse, al fisco, vedo che qualcuno si lamenta perché ho detto che da noi il fisco è alto perché è alta l'evasione, non il contrario, ribadisco e poi magari spiego. Andiamo avanti, Dia Sorin, mi correggono sulla pronuncia, chiedo venia, più 2,25%, che succede? Allora, Dia Sorin bisogna ricordare che ha fatto il suo ingresso nel FTSE MIB, che è il paniere principale, il 20 dicembre scorso. Allora, da quella seduta bisogna dire che il titolo ha mostrato un andamento estremamente volatile, nel senso che le azioni nel giorno dall'ingresso e nelle prime due sedute quindi hanno guadagnato oltre il 3%, per poi in realtà perdere terreno, annullare tutti i guadagni, arrivare a perdere il 6% alla chiusura di ieri, quindi in realtà può essere semplicemente che oggi siano verificate delle ricoperture o comunque che continui questo andamento volatile del titolo. I titoli energetici, bene Eni più 1,3, Enel più 0,90, Snam così più 0,40 per carità, e invece Saipem perde l'1,11%. Sì, allora bisogna dire che oggi il comparto energetico è andato molto bene, infatti è salito del 2,4% circa in Europa, innanzitutto grazie al balzo delle materie prime, ma anche al forte rialzo di BP a Londra, che ha guadagnato oltre il 6% sulla scia delle indiscrezioni relative a un possibile interesse di Shell appunto per la società. Per quanto riguarda Eni, inoltre, che è chiuso in territorio positivo, la società, il gruppo Petrobras, ha confermato di studiare la possibilità di una transazione con Eni in relazione quindi alle indiscrezioni relative a una possibile offerta del gruppo ad Eni per il 33% di Galp. Sì. Per quanto riguarda invece Saipem, oggi si è trattato bene o male di prese di profitto, il titolo ha perso l'1%, ma in realtà le azioni nell'ultimo mese hanno realizzato una performance del 17,5%. Ancora il lusso, Bulgari il peggior titolo dell'S&P MIB, ossia dei titoli a maggiore capitalizzazione, meno 2,6%, anche Luxottica non va bene, meno 1,6%, al che mi chiedo, Safilo Group per il 4%, al che mi chiedo come mai Poltrona Frau guadagni il 10%. Sì, in realtà Poltrona Frau va in controtendenza perché tutto il comparto del lusso in Europa è in calo, basta solo guardare a Louis Vuitton che a Parigi perde oltre il 2%, quindi per Poltrona Frau si tratta di un andamento che va contro il resto del comparto, ma oggi non ci sono comunque notizie sul titolo e quindi non ci sono spiegazioni ufficiali da dare, se non che nel mese di dicembre il titolo è salito molto, ha subito una leggera battuta d'arresto poi verso la fine del mese per continuare la risalita ieri. Ancora, Finmeccanica, qui ci sono notizie che arrivano dagli Stati Uniti, terreno e mercato molto molto sensibile per Finmeccanica. Perché lo dico? Perché il titolo ha perso l'1,3% dall'America forse arrivano notizie di un taglio dei fondi da parte del Dipartimento della Difesa. Sì, allora infatti i riflettori diciamo che sono puntati appunto sugli Stati Uniti, in particolare sulle commesse per cui è in gara la controllata di Fiumeccanica che è Augusta Vestrand. Infatti secondo indiscrezioni il segretario della difesa americano dovrebbe annunciare proprio giovedì i risparmi e i tagli ad alcuni programmi di armamento per circa 100 miliardi di dollari. Questa decisione quindi potrebbe influire negativamente sul business di Fiumeccanica negli Stati Uniti. Ancora un titolo tra quelli che abbiamo elencato di Medest, abbiamo detto A2A, non l'ho ricordato, avete ragione, meno 1,5, Todd's segue il mercato del lusso, meno 1,5, Tenaris meno 1,5 e poi di Saipem e Fiumeccanica abbiamo detto Parmalat meno 0,7%, Pininfarina perché guadagna il 9,4%. Allora, Pininfarina ha beneficiato ancora delle indiscrezioni relative all'arrivo di una possibile offerta da parte del produttore automobilistico cinese Bike, che sarebbe interessato alla società, così come interessato alla società il finanziere bretone Vincent Bolloré, che è già partner commerciale di Pininfarina. Oggi la società ha comunque precisato che il procedimento di acquisizione è ancora una fase preliminare, visto che la società sta al momento raccogliendo le manifestazioni di interesse dei potenziali acquirenti. Comunque il mercato ci crede, premia il titolo. Allora, grazie e buon anno a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, grazie a Livia Zancaner. Noi restiamo invece in tema di Fiat, perché al di là della borsa e del fatto che stia premiando tantissimo Fiat Auto, invece inizi un po' a abbassare i valori su Fiat Industrial, oggi di Fiat ha parlato il Presidente della Repubblica Napolitano, che ha commentato e ha definito importante quanto dichiarato dal Ministro del Lavoro Sacconi, secondo cui nell'accordo del 93, gli famosi accordi del 93, erano sanciti dei diritti che bisognava fare salvi. Tutte le parti in causa debbono riconoscere l'essenzialità di questo impegno ad aumentare la produttività del lavoro a fini di competitività internazionale della nostra economia. Mi pare che questo sia un aspetto importante, per quanto siano cambiate le cose e si possa vedere quanto dell'accordo del 93 rimanga valido, però ci sono dei punti importanti che riguardano senza dubbio il diritto di rappresentanza. Sul diritto di rappresentanza e le accuse della Fioma alla proposta firmata da CISL e Will per Mirafiori, in cui la rappresentanza non sarebbe più la RSU ma la RSA, insomma chi ha firmato e rappresentato. Ma oggi su questo diciamo che Marchionne sta facendo da nave rompighiaccio un sistema di relazione industriale, ha messo un po' in difficoltà anche la Confindustria, sicuramente ha messo in difficoltà la CGIL, visto che la neo segretaria Camusso, la Susanna Camusso, ha detto insomma alla FIOM: ripensate, cercate di fare una firma tecnica. Allora su questo è arrivato un plauso da parte del ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, che ha definito coraggiosa la presa di posizione della Camusso, perché in effetti se tu sei il segretario della CGIL andare contro la FIOM, che è il principale diciamo delle varie branche della CGIL, perché rappresenta il mondo metalmeccanico, non è facile. Comunque il no è arrivato subito dal segretario della FIOM Landini, che ha detto: la firma tecnica non esiste, gli accordi o si firmano o non si firmano. E poi è anche tornato su quanto ha detto Marchionne ieri, che ha detto: se passano il no al referendum noi non investiamo a Mirafiori. Le affermazioni fatte anche ieri da Marchionne confermano che non siamo di fronte a un voto libero, perché quando a un lavoratore gli si dice che se dice di sì può continuare a lavorare ma deve rinunciare ad esistere come lavoratore che ha dei diritti, se dovesse dire di no gli si chiude la fabbrica e c'è il licenziamento, non mi pare che siamo di fronte a uno strumento democratico. Era presente anche alla CGIL, la riunione del Comitato Centrale della FIOM, che è stata decisa senza un voto contrario. Siamo un organismo democratico in cui gli organismi dirigenti hanno anche il loro peso e hanno votato. E poi anche Di Pietro. Di Pietro oggi ha preso la difesa della FIOM, ha detto insomma Landini e la FIOM combattono contro l'instaurazione di un regime voluto da Marchionne e noi dell'Italia dei Valori combatteremo questa battaglia con loro. Abbiamo deciso di reagire a quel che riteniamo sia un nuovo vecchio modello tanto cara al regime passato, quello del padrone e dello schiavo. Qualcuno dice che questa è una logica da vetero comunista, io credo invece che sia una logica soprattutto liberale in difesa della Costituzione. Noi dell'Italia dei Valori, proprio rispondendo alle indicazioni che ha espresso la FIOM, noi parteciperemo allo sciopero in difesa dei diritti, ci auguriamo che sia uno sciopero non della FIOM soltanto, ma sia uno sciopero di quella parte degli italiani che hanno difeso la Costituzione. Allora, ogni opinione politica è legittima e non la commenteremo certo noi. Il regime voluto da Marchionne, da quello che noi capiamo, per quel poco che capiamo di economia, si chiama mercato globale, Forse è anche il caso che Di Pietro lo capisca. Il mercato globale, piace o non piace, siamo tutti d'accordo che si stava meglio prima con i mercati protetti in cui i cinesi mangiavano riso, gli indiani facevano la fame e via così, e noi esportavamo tutto, dalle scarpe di bassa qualità alle auto anche di bassa qualità. Ma adesso la situazione è cambiata, questo bisogna capirlo da qualche parte, e lo dico perché insomma la Fiat non vende auto in Italia, ne vende anche poche ultimamente, ma deve vendere auto nel mondo. Un'ultima nota, così poi entriamo belli carichi, un po' in polemica alle 18, dove dovremo parlare con il presidente delle assicurazioni delle polizze RC Auto sulle tasse. Allora, sappiamo tutti che le tasse sono alte in questo paese per chi le paga, altissime. Sappiamo tutti che le tasse non offrono i servizi che promettono. Sappiamo tutti, lo vedo molti artigiani, che per le imprese delle volte è difficile vivere, sarebbe difficile vivere se pagassero le tasse, ma attenzione, la pressione fiscale sul PIL in Italia è in linea con quella di altri paesi. L'evasione fiscale in Italia è assolutamente straordinaria rispetto a quella degli altri paesi. Da lì partire per ridurre le tasse. E adesso il GR 349-238-6666 per i vostri SMS. Ci risentiamo tra 5 minuti per parlare di un altro record italiano, le polizze RC Auto più care d'Europa. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui parleremo dell'anomalia italiana, non l'evasione, non l'alto livello di pressione fiscale, ma le polizze RC Auto. Una risposta la devo dare a chi dice, ma insomma, quale globalizzazione? Era un commento alle parole di Di Pietro, di critica a Marchionne. Quale globalizzazione, oppure cosa vuol dire? Che per colpa della globalizzazione dovremmo diventare tutti schiavi senza diritti come i cinesi? Allora, nessuno ha detto questo. Nessun paese occidentale sta pensando di levare i diritti dei lavoratori, diritti acquisiti, non mi sembra che sia un tema in discussione. Che però, se tutta la manifattura, buona parte della manifattura mondiale e anche dell'ingegneria si sposta dall'Europa, dagli Stati Uniti e anche dalla ricerca informatica in India e in Cina, vogliamo prenderne atto o facciamo finta che non sia successo niente? No? E che continuiamo a fare le pezze, le scarpe, i tondini come prima? Non so, a me personalmente non è che tocchi, ma mi sembra quantomeno serio affrontare il tema e non far finta che con un dazio leghista o con un'altra così idea strampalata si possa combattere la Cina, che ripeto non sta mica facendo t-shirt, né l'India con 15.000 ingegneri all'anno sta producendo solo biciclette. Andiamo e restiamo seri. Serio è il tema delle polizze RC Auto. 349-238-6666 per i vostri SMS. Eh sì, perché non c'è solo il dato complessivo sull'inflazione di cui abbiamo già parlato. L'Istat oggi, nel diffondere i prezzi al consumo, l'andamento preliminare dei prezzi al consumo nel mese di dicembre, fa anche notare che le polizze RC Auto, e quindi il caso RC Auto, continua a essere un caso, appunto, più 6,6% a dicembre l'aumento medio delle tariffe RC Auto rispetto a un anno prima. E questo si aggiunge all'allarme lanciato qualche giorno fa dall'ISVAP, che è l'autorità di vigilanza sul settore assicurativo, che ha annunciato, attenzione, vi saranno aumenti in media nel 2011 del 10% per gli automobilisti virtuosi e del 25% addirittura per i neopatentati, mentre per le due ruote addirittura un aumento medio della polizza RC auto del 20%. Allarme o comunque sottolineatura che segue i dati relativi già al 2009, dove in Italia il prezzo delle polizze RC auto è aumentato ben più della media europea, più 18% contro una media europea del 7%. E anche qui praticamente il premio annuo che paga un automobilista italiano in euro in media è di 407 euro contro i 172 della Francia, i 222 della Germania e i 230 della Spagna. Oggi però al Ministero dello Sviluppo Economico incontro tra il ministro Paolo Romani, che appunto ha convocato da un lato il presidente dell'ISVAP Giancarlo Gianni, dall'altro il presidente dell'ANIA, che è l'associazione che riunisce le imprese assicuratrici, e mi riferisco al presidente Fabio Cerchiai. È proprio il presidente dell'ANIA Cerchiai in collegamento con noi. Buonasera e buon anno innanzitutto. Grazie altrettanto. Allora, che il prezzo, diciamo il valore in valore delle polizze RC auto, appunto più del doppio rispetto alla Francia, il doppio rispetto a Germania e Spagna, sia alto in Italia è un dato di fatto, ma è anche alto l'aumento, come ricordavamo, cioè quello che è l'incremento delle polizze RC auto. L'ISVAP in realtà ha proposto a fine anno degli interventi che, secondo il presidente appunto dell'autorità di vigilanza Giannini, permetterebbero di abbassare i premi che noi paghiamo per l'auto intorno al 15-18%, per esempio gli interventi sul danno alla persona, quindi interventi normativi per tabellare le menomazioni e il relativo valore dei punti di invalidità, perché per uscire da una fase attuale che è di caos giurisprudenziale, poi il risarcimento diretto, il contrasto alle frodi, quindi sanzioni più pesanti per i soggetti privi di polizza e dematerializzazione del contrassegno assicurativo per prevenire in questo caso il fenomeno della falsificazione della contraffazione, e poi il tacito rinnovo, ossia l'abolizione al fine appunto di stimolare meccanismi di concorrenza e mobilità dei consumatori, per cui sono ritenuti fattori abbastanza cruciali per determinare il prezzo del mercato. Allora, di cosa avete parlato con il ministro Romani e il presidente chiaramente dell'ISVAP, mi riferisco a Giancarlo Giannini? L'incontro con il ministro Romani e con il presidente Giannini è stato un incontro molto costruttivo, in cui si sono analizzate le proposte che aveva recentemente avanzato l'autorità di controllo per intervenire sul problema dei costi dei risarcimenti, perché se da un lato corrisponde alla realtà che i prezzi delle RC auto in Italia sono più alti che nella media europea e quasi il doppio della Francia, altrettanto corrisponde alla realtà che i costi dei risarcimenti in Italia sono più del doppio della media europea e della Francia medesima. Quindi bisogna intervenire su questi fattori che l'industria aveva evidenziato da tempo, avevo lanciato come area di intervento in occasione della relazione pubblica che c'era stata l'anno scorso in luglio, proponendo una serie di interventi che sono stati analizzati dall'ISVAP e riproposti con alcune modifiche nella lettera che l'autorità ha rivolto al ministro e al presidente della Camera e del Senato a fine dello scorso anno. Quindi si sono analizzate queste aree di intervento, sono provvedimenti quelli che riferiscono alla necessità di intervenire sul costo degli esercimenti anomalo in Italia, soprattutto degli esercimenti per il danno alla persona. Pensiamo che noi abbiamo ogni 100 sinistri 20 con un danno alla persona, la media europea è di 10, in Francia anche meno. Questa evidenzia è un'anomalia che bisogna rimuovere. Per rimuoverla bisogna intervenire sulle microlesioni, sui criteri di risarcimento delle microlesioni e anche su quelli delle macrolesioni. Allora guardi, Presidente, facciamo una cosa. Siccome il tema è molto delicato, perché ho capito benissimo cosa dite, e ci arriviamo, questo è un paese di furbi, è un paese anche di truffatori, però non può sempre essere che le colpe di alcuni furbi vengano distribuite su tutti gli automobilisti. Ci fermiamo un secondo per il traffico E poi ripartiamo sui prezzi delle polizze RC Auto. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Dicevamo, polizze RC Auto, terminato un'ora e mezza fa l'incontro con il ministro Romani e il presidente dell'ISPA Giancarlo Giannini, appunto il presidente dell'ANIA che è nostro ospite, ossia la compagnia di assicurazione, Fabio Cerchiai. Allora, il ministro Romani, come abbiamo ricordato e come hanno ricordato anche il nostro GR, ha dichiarato inammissibile il costo medio delle polizze RC Auto in Italia, cioè 407 euro contro i 200 del resto d'Europa, i 170 della Francia, i 220 della Spagna. Inammissibili, Presidente, inammissibili queste polizze? Io sono d'accordo che siano inammissibili questi costi, perché sono costi anomali. I prezzi conseguono i costi. I sinistri sono come il costo delle materie prime per l'industria assicurativa, è un fenomeno esterno all'impresa. Allora noi dobbiamo ridurre il numero dei sinistri e dobbiamo ridurre soprattutto il costo medio di questi sinistri. Attraverso questi due interventi arriveremo anche alla riduzione dei prezzi. Se avessimo il numero dei sinistri della Francia e il costo medio per sinistro della Francia, avremmo i prezzi della Francia. Allora, quindi lei dice inammissibili i costi, ma inammissibili anche le tariffe, no? Le tariffe non sono inammissibili, sono elevate, il che significa sono inevitabili, ma elevate. È interesse di tutti arrivare alla riduzione delle tariffe. Qui le ricordo che le tariffe non sono i prezzi, ma lei prima ha parlato di aumenti tariffari che sono aumenti di listino. Poi i prezzi realmente praticati nella dinamica concorrenziale sono diversi, sono più bassi. Se lei confronta i premi incassati dalle compagnie di assicurazione per le RC Auto in Italia l'anno scorso rispetto all'anno precedente, ha incrementi medi del 3-4%. Comunque, insomma, ho capito, lei dice... Ben al di sotto, però bisogna intervenire sui fattori di costo, di sinistralità, questo non solo per dovere sociale, ma anche per valenza economica, perché attraverso quella strada si può arrivare, ed è quello che abbiamo convenuto con il ministro e con il presidente dell'ISPA, a ridurre anche i prezzi delle RC Auto. Allora lei dice un'azione di sistema. Lei dice le tariffe sono elevate, però quelli che sono, e lo mette anche lei, insomma, il dato è oggettivo, quelli che sono inammissibili però sono i costi, e lei faceva riferimento da un lato a quante volte, io traduco, cerco di tradurre, cioè in Italia la percentuale di incidenti che portano a danni fisici alla persona è il doppio della media europea e anche più del doppio rispetto alla media francese. Allora, delle due l'una, o veramente qui siamo fragilini e guidiamo particolarmente male, oppure, se ho ben capito quello che lei vuole dire, c'è molta truffa. Truffe e mini speculazioni. C'è chi ci marcia sopra. Perenne, diventano costo per la collettività. Tra l'altro, quindi è indispensabile creare l'agenzia antifrode. Ecco, allora, l'agenzia antifrode, un'agenzia pubblica che va a fare che cosa, mi scusi, quando io denuncio che ho avuto una micro lesione alla mano. La banca dati, guardi, l'attività fondamentale è un'attività investigativa preventiva. Analizzando la banca dati dell'ISVAP, l'agenzia pubblica, perché privatamente, i privati ovviamente per motivi di privacy non possono farlo, identifica con facilità tutte le anomalie, che purtroppo sono numerose. Che ci sono nella richiesta di trascinamento. Ci sono persone che risultano, ogni tanto lei lo si legge insieme sui giornali quando riusciamo a scoprirlo. Sono state testimone 80 volte in un anno di un incidente. Ci sono sinistri allo stesso arto risarciti più di una volta. Ci sono truffe, e questi siamo nell'ambito delle truffe. Poi c'è il fenomeno invece della microspeculazione, il famoso colpo di frusta. Sì. Allora, appena uno è tamponato sente mal di testa. E in Italia riconosciamo un'invalidità permanente oltre che un'inabilità temporanea. Cioè, mentre è certo che se ha preso il colpo di frusta per 3, 4, 5, 6 giorni lei ha un impedimento, è altrettanto certo che nella stragrande maggioranza dei casi non ha postumi di invalidità permanente. Così è trattato in tutta Europa, così è trattato in Francia il sinistro. Allora, le medaglie invece vengono riconosciute, e questo spiega il perché il costo medio italiano è ben più alto. Allora lei dice, allora, per abbattere i furbastri e insomma chi truffa, tra l'altro è ovvio che se uno è, come voi ricordate, 80 volte in un anno testimone di incidenti, delle due luna, o porta sfiga lui oppure c'è qualcosa sotto, no? Nel senso che anche solo è 4. Ecco, insomma, è chiaro che insomma, nella vita in un anno uno forse ne vede uno, esatto. Due, tre, quattro di incidenti. Certo. Tra l'altro oggi è uscito anche il dato di assicurazione.it che dice che insomma il boom di denunce di incidenti lo hanno nella classifica i toscani, incidenti con colpa 7%, e poi i siciliani 6,7%, e poi i pugliesi 6,5%. Poi le categorie professionali che hanno causato il maggior numero di incidenti, questa è strana, sono i medici, il 6,70%, e gli insegnanti. Gli automobilisti più prudenti invece sono i vigili urbani, e vorrei anche vedere, e i sacerdoti, anche qui immagino insomma che faccia parte anche un po' della vocazione rispetto dell'altro. Lei quindi, Presidente, propone l'agenzia pubblica antifrodi, insomma un'agenzia che va a valutare, mette assieme i dati, dovrebbe essere anche abbastanza facile, e segnala i casi anomali. I tempi però, perché il Ministro Romani mi sembra molto intenzionato a arrivare molto velocemente a una riforma del settore RC auto, anche perché i rincari previsti dall'ISVAP del 10% anche per gli automobilisti più bravi di quest'anno si sommano a il 5% di rincari sull'elettricità, un 25-30% di rincari su treni e trasporto pubblico locale, 8% in più della tassa rifiuti, il 2% in più delle autostrade, per cui il governo inizia ad avere anche un problema di tenuta dei consumi e del potere d'acquisto. I tempi, Presidente Cerchiai. Guardi, l'agenzia antifrode deve essere istituita per norma legislativa. Se fosse possibile, l'auspicio sarebbe che fosse istituita per decreto. Credo che il Ministro intenda sollecitare lavori che sono già in fase avanzata alla Camera, nella Commissione Finanze, per arrivare magari a una seduta già deliberante. Io dico che ogni giorno che passa, a dimostrare quanto condivido l'urgenza del Ministro, è un giorno di ritardo in più. Noi siamo pronti, la banca dati di ISVIP c'è, l'industria assicurativa ha preso l'impegno a sostenere le spese di finanziamento dell'agenzia antifrode, se richiesta in questo senso, per cui non facciamo passare tempo e mettiamoci subito al lavoro. Ecco. Anche sulle altre cose mi è sembrato che il Ministro e il Presidente dell'ISVAP condividessero l'urgenza sia di rivedere le tabelle delle microlesioni che soprattutto di definire, colmando un ritardo che c'è perché c'è una precisa prescrizione del codice delle assicurazioni in questo senso, definire le tabelle delle macrolesioni. Ecco, però ci sono... non avere... Prego. No, ci sono altre due proposte dell'ISVAP e mi riferisco da un lato al tacito rinnovo, cioè la concorrenza abbassa i prezzi, oltre che, per carità, andare a verificare chi fa il furbo e chi froda. E allora, se invece che il tacito rinnovo ogni anno la compagnia di assicurazione potesse ripropormi un rinnovo e magari mi arrivassero diverse offerte per cui posso scegliere, non sarebbe meglio? E l'altra... Noi siamo stati... E l'altra riguarda il risarcimento diretto, perché l'ISOP chiede di ripristinare l'esclusività della procedura, per cui anche lì forse... Siamo assolutamente d'accordo su entrambe le richieste dell'ISOP, le proposte dell'ISOP. Quindi sia sul tacito rinnovo che sul risarcimento diretto? Perché l'abolizione del tacito rinnovo è un'abolizione da valutare, che noi non, per la quale noi non abbiamo nessuna obiezione, così come a suo tempo siamo stati a favore del preventivatore che consente di comparare i prezzi delle compagnie di assicurazione. Qualche obiezione ho letto dalle agenzie, è mossa dalle associazioni dei consumatori, perché certo c'è il rischio che qualcuno si dimentichi di rinnovare la polizza. Sì, ma, cioè, insomma, questo rientra nella diligenza individuale che cercheremo di, con qualche strumento di memoria, di supportare. Per quanto riguarda l'indennizzo diretto, siamo assolutamente convinti della fondatezza della richiesta dell'ISVAP. Bisogna togliere incertezze, bisogna far sì che questo procedimento sia un procedimento non eludibile. E quindi la proposta dell'ISOP è pienamente condivisa dall'industria. Allora, visto che siete d'accordo con tutte le proposte delle autorità che vigila voi, cioè il mondo delle compagnie di assicurazioni, e che il ministro Romani ha detto che parlerà subito con i parlamentari che stanno lavorando al disegno di legge e casomai, se non fosse possibile arrivare a un accordo in fretta, si inserirà nel o potrebbero essere inserite alcune norme nel disegno di legge sulla concorrenza. Speriamo che si arrivi presto a questa agenzia antifrode in modo che ci siano meno costi per voi come risarcimenti e soprattutto meno costi per noi come premi pagati alle polizze RC Auto. Grazie intanto al presidente degli assicuratori italiani Fabio Cerchiai. Grazie a lei, a presto, arrivederci, saluti a tutti. Allora, sì, il tacito rinnovo, volete sapere, insomma, il fatto che in Italia la polizza RC Auto uno in automatico viene rinnovata, non viene data la possibilità di scegliere se vuoi rifarla con quell'agenzia o con un'altra. È solo il nostro paese che è così. Una delle proposte, Cerchiai era d'accordo di dire no, ogni anno arriviamo, vuoi rifarla con noi, vuoi rifarla con un altro. Quindi, detto ciò, visto che ho Giuseppe Cruciani adesso per sentire anche i temi che tratterà la Zanzara, quanto paghi di polizza RC Auto, te lo ricordi? Beh, circa 1000 euro, ma a me ogni volta ti lo richiedono. Tu hai, non hai il tacito rinnovo? No, non ho il tacito rinnovo. Non è che me lo richiedono, non è che me lo richiedono, è che io so quando scade. Se non voglio rinnovare con quella e voglio trovare una nuova compagnia, semplicemente mi mandano in automatico, come si chiama, il certificato di buona condotta, chiamiamolo così, anche se c'è un termine tecnico che adesso non mi viene in mente. Ma 1000 euro, comunque paghi due volte e mezzo la media in Italia, che è 407 euro. Sono ricco, me lo posso permettere. Esatto, oppure sei sinistroso, inteso come incidenti, perché sicuramente politicamente non è il tuo problema, ma e su questo pensa che in Francia pagheresti la metà, anche tu pagheresti non 1000 ma 500 euro, in Spagna giù di lì. Noi siamo al doppio in tutta la media europea, ma non volevo tediarti con le polizze RC Auto. Meno male, di cui non parlerò. Di cui non parlerai, di che parlerai? Parleremo di Carla Bruni. Bruni, protagonista o no nella vicenda Battisti, punto interrogativo. Parleremo anche di questa cena degli ossi questa sera in Cadore, dove c'è Bossi, diversi esponenti dirigenti leghisti e Tremonti. La cena degli ossi è riferita al cibo, chiaramente non ai partecipanti, immagino. Sì, non ai partecipanti, soprattutto non ci sarà, o ci sarà magari, Berlusconi lì a rosolare l'osso. Va bene, allora tra poco la Zanzara. Da Sebastiano Barisoni invece è veramente tutto, vi lascio la nostra programmazione, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.